Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Gazart, artisti e intellettuali per Gaza, andato in scena a Roma, al Teatro di Villa Lazzaroni, lunedì 18 marzo 2024. Ideatori e organizzatori Angelo Dorsi e Alessandro Negrini, con interventi di Laura Morante, Barbara Scoppa, Michele Cantoni, Raffaele Crocco, Laura Frascarelli, Arianna Porcelli Safonov, Claudio Silighini, Monio Vadia, Angelo Dorsi. Riprese video dell'evento Mauro Conciatori. Invitiamo qua Laura Morante. Leggo, grazie, alcune liriche di Mahmoud Darwish. Pensa agli altri. Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri. Non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri. Non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di, magari, fossi una candela in mezzo al buio. Carta d'identità. Ricordate, sono un arabo e la mia carta d'identità è la numero 50.000. Ho 8 bambini e il nono arriverà dopo l'estate. Vi riderete? Ricordate, sono un arabo, impiegato con gli operai nella cava. Ho 8 bambini. Dalle rocce ricavo il pane, i vestiti e i libri. Non chiedo la carità alle vostre porte, né mi umilio ai gradini della vostra camera, perciò sarete irritati. Ricordate, sono un arabo. Ho un nome senza titoli e resto paziente nella terra la cui gente è irritata. Le mie radici furono usurpate prima della nascita del tempo, prima dell'apertura delle ere, prima dei pini e degli alberi d'olivo e prima che crescesse l'erba. Mio padre viene dalla stirpe dell'aratro, non da un ceto privilegiato, e mio nonno era un contadino, né ben cresciuto né ben nato. Mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima di insegnarmi a leggere, e la mia casa è come la guardiola di un sorvegliante fatta di vimini e paglia. Siete soddisfatti del mio stato? Ho un nome senza titolo. Ricordate, sono un arabo. E voi avete rubato gli orti dei miei antenati e la terra che coltivavo insieme ai miei figli, senza lasciarci nulla se non queste rocce. E lo Stato prenderà anche queste, come si mormora. Perciò segnatelo in cima alla vostra prima pagina. Non odio la gente, né ho mai abusato di alcuno, ma se divento affamato, La carne dell'usurpatore diverrà il mio cibo. Prestate attenzione alla mia collera e alla mia fame. Profugo. Hanno incatenato la sua bocca e legato le sue mani alla pietra dei morti. Hanno detto: assassino. Gli hanno tolto il cibo, le vesti, le bandiere e lo hanno gettato nella cella dei morti. Hanno detto: ladro. Lo hanno rifiutato in tutti i porti. Hanno portato via il suo piccolo amore. Poi hanno detto: profugo. Tu che hai piedi e mani insanguinati, la notte è effimera, né gli anelli delle catene sono indistruttibili, perché i chicchi della mia spiga che va seccando riempiranno la valle di grano. Una lezione di Kama Sutra. Con la coppa incastonata d'azzurro, aspettala, vicino alla fontana della sera e ai fiori di caprifoglio, aspettala. Con la pazienza del cavallo sellato, aspettala. Con il buon gusto del principe raffinato e bello, aspettala. Con 7 cuscini pieni di nuvole leggere, aspettala. Con il fuoco dell'incenso femminile dappertutto, aspettala. Con il profumo maschile di sandalo sui dorsi dei cavalli, aspettala e non spazientirti. Se arriva in ritardo, aspettala. Se arriva in anticipo, aspettala. E non spaventare gli uccelli sulle sue trecce e aspettala, che si sieda rilassata come un giardino in fiore e aspettala. Che respiri un'aria estranea al suo cuore e aspettala. Fino a che non sollevi il suo vestito scoprendo le gambe, nuvola dopo nuvola, e aspettala, e portala su un balcone per vedere una luna annegata nel latte, e aspettala, e offrile l'acqua prima del vino, e non guardare il paio di pernici che le dormono sul petto, e aspettala, e accarezza lentamente la sua mano quando poggia la coppa sul marmo, come se sollevassi la rugiada per lei, e aspettala, e parlale come il flauto alla coda spaventata del violino, come due testimoni di ciò che il domani vi prepara, e aspettala, e leviga la sua notte, anello dopo anello, e aspettala, fino a che la notte non ti dica: al mondo siete rimasti soltanto voi due. Allora portala dolcemente alla tua morte desiderata e aspettala. Un grazie grande a Barbara Scoppa. Buonasera a tutti. Leggo una lettera che mi ha inviato un grande artista, un musicista italiano che ha scelto di vivere in Palestina, da 20 anni vive là, e quindi ho pensato che fosse necessaria questa testimonianza diretta di persona che ha vissuto giorno per giorno con questa realtà, non dal 7 ottobre ma da molto prima. Vado direttamente col testo, che ho anche dovuto tagliare ampiamente perché era molto lungo. Riflessioni sulla situazione in Palestina, di Michele Cantoni. Cari amici, care amiche, solitamente i miei messaggi si riferiscono ad attività musicali palestinesi, ma oggi, considerando la gravità delle atrocità attuali in Palestina, spero mi permettiate di condividere alcune riflessioni di altra natura, perché sono convinto che non si possa rimanere in silenzio, che ci si debba esprimere ora più che mai ed esigere che dagli orrori in corso emerga una realtà diversa, una realtà in cui siano aboliti una volta per tutte i privilegi e le discriminazioni. Vivo in Palestina da ormai 20 anni come musicista, svolgendo attività che mi portano ad essere in contatto costante con le persone e le realtà del paese, sempre in ascolto, sempre curioso e attento a ciò che accade intorno a me, sia nei territori occupati da Israele nel 1967 che nella parte della Palestina dove nel 1948 è stato creato lo Stato di Israele. Da qui la prospettiva sulla situazione degli ultimi mesi, così come sul contesto palestinese in generale, è molto diversa da quella che si può avere dai paesi occidentali. Quando si vede, quando si vive quotidianamente l'ingiustizia, l'oppressione, l'umiliazione, il razzismo e la violenza che i palestinesi subiscono da decenni, si capisce subito che non siamo nel contesto di un conflitto tra parti uguali, ma piuttosto nell'ambito di un dominio totale da parte di uno Stato coloniale molto potente su una popolazione indigena indifesa. Quando si è qui ciò diventa immediatamente ovvio e sorprendentemente semplice. Da qui è difficile capire come atrocità come quelle perpetrate dallo Stato di Israele in questo momento possano durare così a lungo, sotto gli occhi di tutto il mondo, con l'avallo e l'aiuto di paesi che si definiscono civilizzati. È particolarmente scioccante che 80 anni dopo l'olocausto nazista alla Germania, tra tutti i paesi, possa essere permesso di tollerare azioni e dichiarazioni esplicitamente genocidarie. Si ha l'impressione che l'Europa, accecata dal senso di colpa per secoli di antisemitismo, abbia finito per sostituire una forma di razzismo con un'altra, passando dalla demonizzazione degli ebrei alla loro idealizzazione, forse a causa di una incapacità di considerare che in realtà sono persone normali, come le altre. Ma mi chiedo anche se pochi decenni possano bastare all'Europa per superare secoli di razzismo e di spirito coloniale. Forse è per questo che molti paesi europei continuano a sostenere il colonialismo sionista in Palestina. Vivendo qui si può constatare che nella società palestinese non c'è nulla che ricordi l'antisemitismo del mondo occidentale. I palestinesi non denunciano ciò che Israele fa perché è uno Stato che si autoproclama ebraico, ma perché è uno Stato che è stato creato in Palestina nel 1948 attraverso un meticoloso e brutale processo di pulizia etnica e perché quello Stato ha poi occupato il resto della Palestina nel 1967 e persegue da allora una politica implacabile di oppressione e colonizzazione. I trasferimenti forzati e massacri a Gaza dal 7 ottobre, così come le azioni dell'esercito israeliano e dei coloni in Cisgiordania, sono solo una logica continuazione del processo di pulizia etnica su cui è fondato il progetto sionista in Palestina. Spesso mi viene chiesto quale potrebbe essere una soluzione alla situazione in Palestina. Personalmente ho rinunciato da diversi anni a pensare in termini di soluzioni. Sono giunto alla convinzione che sia fondamentale agire e reagire in base al presente, in base al quadro molto chiaro che si può osservare in qualunque momento. Il mio approccio è quello di analizzare uno screenshot della situazione, di pensare in termini di diritti umani e di diritto internazionale per denunciare e affrontare qualsiasi abuso. Conosciamo gli eventi dal 7 ottobre in poi, quindi prenderò come esempio uno screenshot di un giorno qualsiasi prima di quella data, in tempi cosiddetti normali. Israele ha il controllo totale sulla terra, le risorse e i confini palestinesi. I palestinesi non controllano nessuna delle terre, delle risorse o dei confini di Israele. Ne consegue che è Israele che decide chi può lavorare per le istituzioni palestinesi, rendendo praticamente impossibile per queste istituzioni assumere cittadini stranieri. Ho potuto constatare in prima persona l'effetto devastante che questo ha sulle istituzioni palestinesi di educazione musicale. Israele è uno Stato armato con carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi da guerra, un arsenale nucleare, uno degli eserciti meglio equipaggiati al mondo. L'autorità palestinese, un governo sotto occupazione militare, ha dei soldati armati di fucili da usare unicamente per mantenere l'ordine tra palestinesi, non contro le forze occupanti. Le città palestinesi in Cisgiordania sono completamente circondate dall'esercito israeliano. Qualunque restrizione alla circolazione delle persone è imposta da Israele. L'esercito israeliano effettua incursioni quotidiane nelle città e nei campi profughi palestinesi, portando regolarmente all'arresto o all'uccisione di palestinesi, mentre le forze di sicurezza palestinesi sono tenute dagli accordi di Oslo a ritirarsi durante qualsiasi incursione dell'esercito israeliano. Israele persegue una politica sistematica di punizione collettiva, come la demolizione delle case familiari di coloro che accusa di crimini o l'arresto di familiari di persone ricercate. Detiene migliaia di prigionieri politici palestinesi nelle sue prigioni militari, tra cui centinaia di bambini, molti dei quali in detenzione amministrativa, spesso sottoposti a tortura. Israele ha preso in ostaggio la popolazione della striscia di Gaza più di 16 anni fa, rinchiudendo di fatto più di 2 milioni di palestinesi, imponendo un blocco totale del territorio e bombardandolo regolarmente. Fino al 7 ottobre non c'erano ostaggi israeliani in cattività palestinese. E Israele dal 1948 viola costantemente numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, ha messo in atto e continua a sviluppare un sistema di leggi e politiche discriminatorie a favore della sua popolazione ebraica, sia in Israele che nei territori occupati. Nel territorio che controlla da più di 56 anni, solo la metà della popolazione, i cittadini israeliani, ha il diritto di voto nelle elezioni israeliane che determinano la sorte di tutte le persone controllate da quello Stato. Negli ultimi anni questa realtà è stata sempre più riconosciuta e denunciata come una forma di apartheid, in conformità con la definizione di quel termine del diritto internazionale. Nonostante questo quadro chiarissimo, molti paesi vedono Israele come uno Stato democratico. Insistono a parlare in termini di pace piuttosto che ad agire in difesa delle persone oppresse, delle vittime di razzismo di Stato e di terrore di Stato. Vorrei anche darvi due esempi molto semplici di come anche negli Stati europei discriminano in maniera diretta tra i sudditi dello Stato di Israele a seconda che siano cittadini israeliani o meno. I palestinesi dei territori occupati devono richiedere un visto se vogliono recarsi in Europa. I cittadini israeliani, compresi quelli che vivono nelle colonie, possono entrare in Europa senza visto. Le numerose tournée in Europa che ho organizzato per insiemi musicali palestinesi sono state molto più costose, più difficili da organizzare che se questi insiemi fossero stati israeliani. I paesi europei permettono a Israele di discriminare anche tra i loro cittadini a seconda che sposino un israeliano o un palestinese che risiede nei territori controllati da Israele. In questo periodo di orrori, dal 7 ottobre, sia la tipologia che l'entità delle atrocità in corso sono spaventose, come lo è l'atteggiamento di gran parte dell'Occidente. Mi riferisco al colossale sostegno politico, diplomatico e militare che molti paesi occidentali forniscono direttamente a Israele, ma anche alle loro politiche interne che prendono di mira ogni dissenso sotto la falsa copertura della lotta contro l'antisemitismo, secondo un'oscena e pericolosa equazione tra antisionismo e antisemitismo, volta a cancellare ogni traccia dell'ingiustizia e dei traumi subiti da generazioni di palestinesi nel corso di 75 anni. I leader israeliani accusano Hamas di essere i nuovi nazisti perché la maggior parte delle vittime del 7 ottobre erano ebree. Ragionare in termini della natura delle vittime senza analizzare il contesto è un approccio molto pericoloso. Non dovremmo invece concentrarci sulle caratteristiche comuni delle politiche e delle potenze che prendono di mira in maniera razzista milioni di persone. Con questo intendo le inquietanti analogie tra le ideologie di supremazia razziale al potere in Germania allora, come Israele oggi, la violenza e il terrorismo di Stato, la disumanizzazione delle vittime, il presentare le vittime come una minaccia esistenziale. Ma la domanda più pressante è questa. Alla luce di ciò che sta accadendo in questo momento a Gaza e in Cisgiordania, si può seriamente credere che il vero obiettivo del governo israeliano sia lo sradicamento di Hamas? Penso che sia essenziale che suoni immediatamente un campanello d'allarme per chiunque abbia una coscienza. Denunciare questa situazione è una necessità assoluta e urgente. I tribunali internazionali o tribunali ad hoc dovranno fare la loro parte, giudicando le responsabilità di tutte le parti coinvolte, comprese quelle dei leader di paesi che avranno sostenuto o armato chi commette crimini di guerra o che si saranno resi complici di punizione collettiva e di genocidio. Ci sono già dei segnali incoraggianti sia dalla Corte Internazionale di Giustizia che dai milioni di persone in tutto il mondo che capiscono sempre più la situazione e si mobilitano per esprimere la loro indignazione e la loro solidarietà. Una volta che qui saranno stabiliti i principi di libertà e di uguaglianza, sarà possibile un processo di riconciliazione, come in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale o in Sudafrica alla fine dell'apartheid. La mia esperienza sul campo mi porta a credere che quel processo sarà molto più fluido di quanto si possa immaginare dall'esterno. Un caro saluto, Michele. Doveva essere qui con noi Raffaele Crocco, che è giornalista, ma soprattutto fondatore e ideatore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti, che è una cosa incredibile, stupenda, che vi consiglio di scoprire su internet. È un sito costantemente aggiornato su tutti i conflitti nel mondo, giorno dopo giorno, cioè tutte le informazioni sono aggiornate costantemente. Purtroppo non è potuto essere qua come aveva preventivato, quindi ci ha mandato un video con una sua dichiarazione. Ora, quello che so, che ho capito, è che non è vero che il silenzio racconta tante cose. Il silenzio non dice niente, proprio nulla. Il silenzio lascia ad altri spazio e tempo per riempire il mondo di parole. Se queste parole, quelle che usano gli altri, sono sbagliate, beh, sono guai davvero seri. È vero che anche le parole non sono mica da prendere alla leggera, per carità, le parole formano il mondo, lo creano, e se le parole sono solo alcune, solo quelle, anche lì sono guai. Prendete ad esempio una parola che in questo periodo si usa molto, terrorista. Tecnicamente si dice essere terrorista chiunque decida di colpire deliberatamente una popolazione inerme con l'obiettivo politico-militare di terrorizzarla. Chiaro, no? Anche facile. Allora credo che si debba evitare il silenzio per evitare che altri occupino spazio e tempo con parole per impedire a queste eventuali parole di raccontare un mondo sbagliato, perché il mondo è sufficientemente sbagliato anche senza usare le parole sbagliate, anche se usiamo le parole giuste. Che bisogno abbiamo di mentire davanti a 31.000 bambini, donne, uomini, anziani uccisi per vendetta o per ragioni militari? Perché dovremmo tacere davanti a 2.300.000 esseri umani ridotti ad essere praticamente delle bestie affamate e cattive, senza speranza e senza futuro? Come giornalista io sento di dover raccontare ogni minuto di quella sofferenza, so di dover raccontare ogni minuto di quelle atrocità, ogni attimo di quella scellerata e fascista scelta messa in atto dal governo israeliano per annientare un popolo. So di dover urlare che quello che sta compiendo il governo Netanyahu è un lunghissimo e mostruoso atto di terrorismo. I diritti dei palestinesi sono i medesimi di ogni altro individuo e di ogni altro popolo di questa terra. Hanno diritto a vivere nelle loro case, hanno diritto al loro lavoro, scegliendo la propria organizzazione politica, la religione, l'amore. Nessun governo israeliano, in nome di una follia religiosa che parla di popolo eletto antica di 2000 anni, o in nome di una convenienza economica e strategica, può negare questi diritti. Il massacro di Gaza deve finire subito. L'occupazione illegale e illegittima del territorio della Cisgiordania, con il suo carico di violenze e di delitti commessi dai coloni israeliani, deve finire subito. Giustificare o tollerare quel massacro e quelle violenze quotidiane significa tollerare e ammettere come giuste le invasioni di altri in altre terre e lo sterminio di altri popoli. Nulla è dalla parte della ragione per Israele, nulla è dalla parte della ragione in chi la sostiene Israele e mente per sostenerla. Tacere, non gridare basta, non mettere in campo ogni energia Per fermare lo sterminio significa lasciare campo libero alla menzogna e all'omicidio, e questo sarebbe un altro grave atto criminale. Adesso un'attrice che io conosco personalmente, Laura Frascarelli, è attrice di teatro, scrittrice, che al momento è in tournée con lo spettacolo Io e te in un buio pieno di luce di Thomas Otto Zinzi. Che vive la guerra. Ti ho scritto questa lettera che probabilmente troverai insensata, perché ho bisogno di raccontare senza finzioni. Potresti avere l'età di mia figlia, sì, 13 anni circa. E voglio parlarti come se tu fossi lei. Qui dove siamo noi, la guerra è solo dentro il televisore o dentro internet. Basta spegnerlo e tutto scompare. Sono fortunata. Ora lo so, ancora di più. Posso dire di aver vissuto la mia vita in epoca di pace. Almeno fino a qui. Ma da un po' di tempo sembra di sentire una puzza di qualcosa di fetido, di insolito, di diverso, di qualcosa di più vicino. Le notizie si appiccicano al cuore, lo rendono pesante, sembrano fatte di catrame. Ci sono momenti in cui ogni angolo del mondo sembra sgretolarsi, allora anche le mie orecchie sembrano sbriciolarsi come di pasta frolla, perché non vogliono più sentire certe urla che vengono da non so dove. Anche i miei occhi sembrano appannarsi di fronte a certe immagini di corpi di un altrove lontano, e poi mischiati a ricchi che piangono per le loro finte disgrazie, detersivi che distruggono e annientano ogni batterio, integratori del benessere perfetto, macchine potenti, potentissime, che volano in cerchio sopra le nostre teste, sì, e servono a farci sentire meno miseri, sì. Basta comprarne una, sedersi, accendere il motore e ci sentiamo liberi. Quanto costa? Un pezzettino di stipendio, una quota ogni mese, il prezzo della nostra schiavitù. Cara ragazza, sai, nel piccolo paese dove vivo io di lavoro in effetti ce n'è poco. E in molti ce ne siamo dovuti andare per costruirci un futuro. Però c'è una fabbrica di armi. E da pochi mesi a questa parte hanno ripreso ad assumere persone. Nel piccolo paese dove vivo io la terra trema spesso. All'improvviso si mette a danzare, a muoversi, a arrivare con quel boato da lontano, quel fremito sordo, quel borbottio di suolo che si lamenta e i massi che si contorcono sotto i piedi. E quando la scossa è lieve ci si mette in allerta. Sentito? Eh? Sentito che botta? Che paura. Ma forse non è la terra che trema, penso. Forse siamo noi che tremiamo quando siamo un po' più autentici, un po' più connessi forse con il resto del mondo, che a sentire così forte forse ci viene un po' da tremare. Ma quando niente è fermo intorno veramente, allora io non so dove mettermi e ho paura. Ho paura per me e per quelli che non possono muoversi e che so che hanno più paura di me, e ho paura per la casa. E allora ci riversiamo tutti in strada come degli sfollati, e questo spessore di distanza tra le persone all'improvviso si dilegua, si dissolve, e ci ritroviamo lì tutti uguali, sopra la stessa paura, tutti sopra la stessa disgrazia. Qualcuno ha dovuto vivere il lutto di casa sua. Io sono stata fortunata e ho potuto riprendere la vita normale. Un piatto di pasta, un bicchiere di vino, quattro risate a tavola, le canzoncine, i balletti, le musichette, parlare di scuola. E poi le notizie che tornano, e di nuovo quelle voci che tornano dall'altra parte del mare dove stai tu. Io vorrei poterti abbracciare. Penso che se ho paura io, qui, quando la terra trema, ma che paura hai tu lì quando la terra esplode, quando le case si disintegrano, non un minuto all'improvviso, tutti i giorni senza sosta, quando il riparo non c'è neppure sotto il cielo perché dal cielo ti devi proteggere? Che paura hai tu quando l'unica soluzione è scappare e non hai un posto dove metterti? Cara ragazza di quasi 13 anni, Giorno dopo giorno vedo le bombe, la fame, gli aiuti che non arrivano. E sotto a quel muro d'acqua salata contro cui vi hanno schiacciati mi sembra di sentire la puzza di petrolio e di gas e di auto che volano e di posti di lavoro a costruire bombe. E allora mi viene voglia di spegnere tutto, di non ascoltare e respiro. Respiro. E cerco un po' di sollievo, sì, nel primo sole tiepido della stagione, nel profumo di una torta appena sfornata, sì, cerco gli alberi, le nuvole nel cielo, le lenzuola bianche stese e un filo luminoso tra gli abitanti della terra. Riesci ad immaginare? Cerco radici, anche nelle parole, nelle sonorità, nella poesia. La poesia, quel dire e non dire trasversale ai popoli, quell'antico incanto. La poesia che contiene in sé le chiavi dell'accordo. Dicono che sempre meno palestinesi conoscono la lingua ebraica e che sempre meno israeliani parlano l'arabo. Pare che l'unica parola che questi due popoli hanno in comune sia Beit, casa, quattro lettere, come in italiano, come home in inglese, che suona così simile a dom in russo o in ucraino. Ecco, allora io, se seguo il filo delle lettere e delle parole, arrivo a te attraverso i poeti. Il primo che incontro è Mosab Abu Toha. Cos'è casa? È l'ombra degli alberi sulla via di scuola, prima che venissero sradicati. È la foto in bianco e nero del matrimonio dei miei nonni, prima che i muri crollassero. È il tappetino da preghiera di mio zio su cui dormivano in notti invernali dozzine di formiche, prima che fosse saccheggiato ed esposto in un museo. È il forno in cui mia madre cuoceva il pane e arrostiva il pollo, prima che una bomba riducesse la nostra dimora in cenere. È il caffè su cui guardavo le partite di calcio e giocavo, e mio figlio mi interrompe: come può una parola di appena quattro lettere racchiudere tutto questo? Già, come può, eppure è così. E continuo a cercare tra i versi e scopro Mahmoud Darwish. Qui, tra schegge di cose e di nulla, viviamo ai margini dell'eternità. Giochiamo a scacchi a volte, incuranti dei destini dietro la porta. Siamo ancora qua a costruire da macerie colombaie lunari. Socchiudo allora gli occhi ascoltando Rifat al-Harer. Se io dovrò morire, tu dovrai vivere. Per raccontare la mia storia, vendere le mie cose, comprare un pezzetto di stoffa e qualche filo, magari bianco, con una lunga coda, così che un bimbo da qualche parte a Gaza, mentre fissa il cielo in attesa di suo padre, morto all'improvviso senza dire addio a nessuno, né alla sua pelle, né a se stesso, veda il mio aquilone, quello che tu hai costruito, volare alto e pensare per un attimo che sia un angelo a riportare amore. Se io dovrò morire, che porti allora una speranza, che la mia fine sia un racconto. Cara ragazza, io credo di non avere le parole giuste, ma ciò che ti voglio augurare è di trovare presto il tuo filo bianco e di vedere finalmente e per sempre aquiloni e lenzuola bianche stese al sole. Ce n'è un'altra in circolazione di droga che altera la realtà e che ha pesanti controindicazioni. Lo so che siete stanchi, ma provate a seguirmi, perché sono stanca anch'io, arrivo che non avete neanche un'idea del bucio che mi sto facendo. Come si chiama la capacità di un essere umano di sopportare le ingiustizie? Non so se abbia un nome per le neuroscienze, ma è una capacità che non ha nulla a che vedere con appunto la resilienza, no? Che è un'operazione, se ci pensate, decisamente egoista, mentre la capacità di sostenere proprio le ingiustizie, io credo che sia l'ultimo faro dell'empatia rimasto a disposizione. Allora, visto che si tratta di una capacità, quanta capacità può avere? Cioè proprio il volume Quanto volume può avere questo recipiente che deve contenere nella nostra testa il sangue, le lacrime di altre persone meno fortunate di noi perché negre? Ho detto negro. C'è qualche giornalista di Repubblica in sala? Non credo. No, vero? Bene. È evidente che la capacità di sostenere il peso degli eventi vari di persona in persona. So che è una banalità, ma in realtà c'è proprio una motivazione legata alle neuroscienze. Il nostro cervello reagisce ad un video in cui, mettiamo caso, vengano ammazzati dei civili che attendono pacchi aiuto con cibo, generando un senso di disgusto e di rabbia, ok? Si attivano proprio le stesse aree cerebrali implicate nell'esperienza del disgusto e del dolore psichico e sociale. E la cosa divertente, perché anche se può sembrare strano, sono venuta qui forse per farvi un po' ridere, è che si attivano le stesse aree cerebrali implicate nell'esperienza, no, di disgusto, di dolore, e quell'area cerebrale lì si chiama corteccia cingolata. Mentre queste reazioni fisiologiche sembrano essere invarianti tra i soggetti, le reazioni cognitive invece, il modo in cui quindi elaboriamo consciamente queste esperienze, possono variare di persona in persona. Tu sei diverso da me, eccetera. Possiamo avere reazioni di sdegno, di attivazione rivolta alla protesta, alla ribellione, come forse quella di stasera. Il tentativo di eliminare le condizioni che consideriamo all'origine dell'ingiustizia. Questa può essere una versione, ma ne esistono altre. Esistono proprio altre risposte cognitive, tipo quelle che ha chi si adatta. Coloro che modificano a livello biologico, non è colpa loro, a livello cognitivo, le loro credenze, le loro convinzioni, per adattarle ad una situazione di palese ingiustizia. Mi seguite? Cioè, come se a livello cognitivo trasformassero queste esperienze in uno scenario più tollerabile, più contenibile, persino giustificabile. Le possibilità dunque sarebbero due: o si reagisce cercando di intervenire attivamente sulla realtà per renderla coerente con il proprio ideale di giustizia, e ci si fanno venire i mal di pancia che ben conoscete, oppure si adatta alla lettura della realtà per renderla compatibile con una personale visione di un mondo giusto. In pratica, se l'ingiustizia è difficile da eliminare dai fatti, la possiamo far sparire ristrutturando cognitivamente il nostro modo di vedere la realtà, così ci sentiamo subito meglio, senza drogarci, appunto. Oppure no? No. Perché l'ingiustizia e la sofferenza che questa realtà determina non spariscono, restano là. Ciò che sparisce è solo il nostro senso della realtà. Siamo come drogati. Drogati di una risorsa cognitiva resiliente. È la droga che prendono quelli che ancora leggono, appunto, Repubblica o il Corriere della Sera. E come tutte le droghe, proprio altera la realtà, agisce sulla corteccia cingolata in modo che i cingolati possano agire indisturbati. Permettetemi questa cazzata, che mi ha fatto tanto ridere quando l'ho scritto. Ho detto... Allora, fino a poco tempo fa sembrava che i popoli orientali fossero quasi più in grado di noi di mangiar merda. Eri abituato, no, a vedere questa gente che soffriva, assuefatti dagli orrori. Adesso, se siamo qui stasera, è perché siamo occidentali atipici, occidentali che non riescono più a digerire bene, difatti abbiamo tutti l'intestino a puttane, occidentali che non riescono più a guardare video di gente morta su Instagram e poi a chiudere l'app e ad andare al Pilates. Contro ogni previsione, quindi, sugli occidentali, siamo diventati empatici, ma prima o poi, vedrete, verranno a cercarci. Prima o poi verranno a chiederci delle spiegazioni, verranno a tirarci i capelli, a metterci nelle loro liste di amici della vita, di complici del benessere dei musulmani. Io sono già in quella dei filorussi, probabilmente. Verranno a metterci nella lista dei tifosi della pace, che, come sapete, è il nemico numero uno degli affari esteri. Stanno studiando un vaccino per la pace, verranno a cercarci. A quel punto probabilmente i Novax aumenteranno. Nel frattempo bisogna cercare... No, non abbiamo tempo. Chiudete. Sì, perché siamo tanti e poi la droga ci serve davvero. Nel frattempo, quindi, bisogna cercare di ottimizzare, di capire, no, come poter gestire questo nuovissimo senso di disperazione che stiamo provando, no, che abbiamo dentro, perché fa male a noi e non piace alle istituzioni. Non fate riprese, con questi telefoni, che poi in gabbio ci vado io, non voi col telefonetto. Quindi bisogna raccapezzarsi su come arginare questa incredulità che sta prendendo il sopravvento nella nostra testa, questo cortocircuito senza precedenti, sempre più tangibile, che rende insostenibile al nostro sistema immunitario lo scollamento tra ciò che sentiamo su alcuni canali di informazione marginali chiamati con disprezzo indipendenti e ciò che ci dicono i governi attraverso i loro uffici stampa, che si fanno ancora chiamare quotidiani di informazione. Cosa c'è di più destabilizzante di svegliarsi un giorno e accorgersi di essere malvisti dal proprio paese? La droga, mi verrebbe da dire, ma non solo. La capacità di sostenere il peso dell'ingiustizia storica a cui stiamo assistendo è una capacità quasi acrobatica. Siamo una massa sempre più ingombrante di persone di tutti i tipi, di tutti i ceti, in tutto il mondo occidentale, che si sono cacati il cazzo, che si indignano assieme contemporaneamente, come un'orchestra che crea una sinfonia perfetta senza aver fatto 5 minuti di prove. Stiamo scendendo in piazza senza darci appuntamento, senza chiedere il permesso. A me mi ha sempre fatto ridere questa cosa di dover chiedere l'autorizzazione per manifestare. Perché la manifestazione si manifesta, lo dice la parola, è un'epifania, è mica il concerto di Tiziano Ferro. La manifestazione, no, perché la manifestazione si crea come si creano le onde in mezzo all'oceano, no? Chiedere il permesso per rubare le piazze alle occasioni ufficiali è sodomia civica. In tutto il mondo quindi ci stiamo indignando, ok? C'è gente giovane che sta tornando a darsi fuoco, non so se l'avete vista, davanti alle ambasciate. Eppure i nostri governi, chi sceglie di lavorare per loro, proseguono le loro operazioni come schiacciasassi, come se fossimo invisibili. E perché siamo invisibili? È la brutta notizia della serata, ma si aggiunge a tante altre. Come potremmo mai d'altronde essere visibili con le nostre bandierine verdi, rosse, nere del cazzo se il soggetto delle nostre manifestazioni è il primo a essere invisibile? Morti che non sono famosi, che non interessano a Maravenier. Come potremmo ambire alla visibilità in questo gigantesco buio dove i fari che amplificano l'opinione pubblica sono stati spostati sul gossip, che diviene di importanza campale? Non so se ci avete fatto caso, ma fino a poco tempo fa il divorzio della Ferragni, ad esempio, sarebbe stato discusso su Gente, su Novella 2000, dalla Toffanin, nei posti giusti dove parlare di questo. Adesso invece sono in prima serata. Ne parla Fazio, in prima pagina. Come faremo a resistere ancora nella legalità senza fare... È una domanda che faccio a me prima di tutto. Come, per questo vivo nell'Appennino, perché così almeno mi tengo ferme le mani. Come faremo ora che siamo tanti e che soprattutto appunto questa sacca che deve contenere l'accettazione della realtà è stata lacerata, non teniamo più niente? Che peso possiamo avere noi altri che siamo tanti e che non possediamo un giornale, una TV, degli opinionisti? Ci sarebbe in realtà un potere nascosto, ma non neanche troppo nascosto, che la gente ancora sottovaluta. È un superpotere, è il superpotere del consumatore. Smettere di comprare produce un'ondata anomala, mastodontica, contro l'impunità di chi non sta prendendo decisioni compatibili con la volontà popolare, ma che anzi viene foraggiato dal denaro popolare, perché questa è la controindicazione, no? Immaginate se invece di vederci a Piazza della Repubblica per la manifestazione domani non usassimo Nexi per i nostri pagamenti, col telefonetto anche lì. Immaginate se l'indignazione si facesse sentire non facendosi vedere su Amazon, su Disney Plus. Immaginate se la rabbia che stiamo covando per la nostra frustrazione decidesse che per un mese la nostra auto non berrà più una goccia di benzina, piuttosto ce ne andiamo con questi cazzo di monopattini. Morire per la patria è usare il monopattino a Roma, tra l'altro. Immaginate che grandissime orecchie spunterebbero ad un sistema che si finge sordo ma ci sente benissimo e che sorride del fatto che la massa sia tanta, ancora purtroppo ricca ma disorganizzata. La persona non conta più un cazzo come cittadino libero, la persona non conta più un cazzo come elettore, la persona non conta più un cazzo come lettore. come spettatore, come genitore. La persona forse conta solo ancora come consumatore. La consapevolezza del consumatore è la nuova Molotov. Questa sera vi ho portato un amico, che è anche una persona con cui collaboro da tanto tempo, che si chiama Claudio Silighini, oltre ad essere un reporter che ha vissuto e ha fotografato e ha testimoniato territori come quello della Palestina, ma anche quello della Via dei Balcani, vi ha portato un piccolo manuale che dura veramente 2 minuti, pratico, sui marchi che dobbiamo boicottare. Hanno ucciso, perché il termine giusto è ucciso, in 4 mesi, in una striscia larga 7 chilometri, un numero di bambini superiore ai bambini morti negli ultimi 4 anni in tutto il resto del mondo. E sia l'autorità militare politico israeliana, sia la stampa italiana lo hanno chiamato diritto alla difesa. Anche i politici italiani. Scusate, io sono meno artistico, un po' più analitico. Dopo tutta questa sfilza di artisti, io forse avrò dei dati diversi. Pochi anni fa Norbal Finkelstein, ebreo americano, attivista, figlio di deportati ad Auschwitz e nipote di deportati a Bergen-Belsen, che io ho avuto anche la fortuna di incontrare, davanti a una platea di gioventù ebraica ha detto: se voi avete un cuore, quello deve battere per i palestinesi. E tutta la gente che è qui stasera e tutta la gente che io sto incontrando in questo periodo in Italia, e non solo l'Italia fortunatamente, sta... il cuore di queste persone sta battendo, secondo me, dalla parte giusta della storia. La narrativa classica la conosciamo benissimo. Io sono qui per darvi in 3 minuti 2 dati molto... Innanzitutto vi consiglio di scaricare una app che si chiama No Thanks, No Grazie. Questa app vi permette di fare una spesa consapevole. Bisogna decidere se si è, se vogliamo, perché girare la testa dall'altra parte di fronte a un'evidente violazione dei diritti umani significa, a parer mio e non solo mio, automaticamente schierarsi con l'oppressore. Per cui una spesa consapevole trovo che sia una cosa molto intelligente. È un'app gratuita e dal momento in cui si scarica basta scansionare il codice a barre di qualunque prodotto troviamo in giro per il mondo. E l'app immediatamente ci dice se queste aziende investono nei territori occupati. I territori occupati sono una metastasi, sono il primo problema politico, fisico anche, e pericoloso per il popolo palestinese. Adesso vi do una lista delle 10 banche europee, per questo che Arianna ha detto che finiremo anche noi nella lista. Questo è un report dell'ONU di Michael Link, è un relatore sui diritti umani in Palestina. È un report di 125 pagine e vi do la lista delle 10 banche europee che hanno investito 170 miliardi di dollari a favore dei coloni e degli insediamenti illegali. Al 10° posto c'è l'Unicredit con 3 miliardi di dollari. Molte di queste banche saranno le vostre banche. Era una delle mie banche, una di queste. Non lo è più. Commerzbank, ING Group, Santander, Crédit Agricole, Société Générale, Barclays, HSBC, Deutsche Bank, al 1° posto con 17 miliardi di dollari la BNP Paribas. Queste banche europee hanno permesso dal 2018 al 2021 uno sviluppo straordinario delle colonie illegali, che sono i più grandi sostenitori di Bibi Netanyahu. Il processo di dearabizzazione in Palestina è un processo iniziato, io l'ho iniziato a seguire 40 anni fa, è un processo iniziato da oltre 70 anni ed è un processo che deve essere fermato perché ne va della libertà di tutti, non solamente del popolo palestinese. Dirvi quali sono i marchi fondamentalmente da boicottare, finiamo a maggio probabilmente, nel senso che sono tanti, i più famosi li conosciamo: Coca-Cola investe in Israele dal 66, Nestlé, Estée Lauder, Pizza Hut, che addirittura a McDonald's, Pizza Hut hanno sponsorizzato l'esercito americano. Ci sono delle immagini di soldati americani che mangiano e fanno vedere il logo di Pizza Hut e di Burger King durante questi giorni. Danone, SodaStream, Siemens, Hewlett Packard, AXA, Puma, Starbucks, questi sono solamente, Coca-Cola, Intel che produce i loro processori, Levi Strauss, Donna Cara New York, Calvin Klein, Timberland, Nokia, Caterpillar ha sponsorizzato i bulldozer che buttano giù le case dei palestinesi, li abbiamo visti tantissimo. Però ripeto, parlarvi di questa lista, cioè dovessi parlare di questa lista finiremmo a maggio. Io vi consiglio di scaricare quella app, ripeto, si chiama No Thanks, è gratuita, è veloce e funziona benissimo. Chiudo dicendovi, raccontandovi, io sono un fotografo, ho moltissimi colleghi che sono laggiù, purtroppo avete visto il numero dei colleghi morti, equivale a, credo a, è maggiore dei numeri dei colleghi morti degli ultimi 30 anni in tutte le guerre. E, mi sono arrivati tantissimi filmati, ma uno mi hanno fatto male tutti, ma uno mi ha veramente colpito. Era la storia di la scena di un ragazzino in un pronto soccorso. Era passate 3 settimane ed era completamente bruciato dal fosforo bianco. Il padre era di fianco. Il ragazzino era abbastanza tranquillo. Il padre urlava disperato e il ragazzino diceva al padre, con una personalità e una forza straordinaria, nonostante probabilmente il dolore che stesse provando, stai tranquillo papà, andrà tutto bene. Ecco, nella forza di quel ragazzino c'è tutta la forza vera, assoluta di questo popolo che io conosco da 40 anni, che trovo veramente straordinario. Vi ringrazio. Non potendo essere con voi di persona, partecipo alla vostra iniziativa con un contributo video, breve naturalmente. Nei primi anni 60, primissimi anni, non ricordo bene 61 o 62, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy visitò la Germania e tenne un celebre discorso a Berlino, diciamo in una grandissima piazza in prospicienza del famoso muro di Berlino, che l'Unione Sovietica aveva eretto come barriera. E in quella circostanza, in quel discorso, il presidente Kennedy finì il suo discorso con questa frase in tedesco: Ich bin ein Berliner, cioè io sono un berlinese. Bene, io mi approprio di questa frase oggi per dire: io sono un palestinese, e specificamente oggi un palestinese di Gaza, ma non solo, un palestinese. Che cosa intendo dire con questo? Che oggi tutti gli uomini giusti, tutti gli uomini che credono nella possibilità di cambiare questo mondo in direzione della giustizia sociale, della dignità umana, del rispetto dei valori universali dell'umanità e dei diritti universali dell'uomo, devono fare questa dichiarazione e devono impegnarsi a sentire un palestinese. Perché non solo noi stiamo assistendo a quel massacro genocidario che avviene sotto i nostri occhi, in cui esseri umani, innocenti, bambini, donne, vecchi, tra gli altri anche adulti, vengono fatti a pezzi, ma vengono affamati, assetati e vengono trattati in questo modo dopo averli dichiarati non esseri umani, con l'intento, che è il falso scopo, di sconfiggere Hamas, e Hamas è solamente una scusa, lo dimostra il fatto che gli stessi intenti di violenza, di sopraffazione, di espropriazione, di brutalizzazione avvengono in Cisgiordania, dove non c'è Hamas. E allora noi dobbiamo capire che non si tratta solo di difendere i diritti del popolo palestinese, che è il nostro primo impegno di un essere umano decente, degno di questo nome, ma anche che si tratta di assumere l'identità di palestinese come l'identità che oggi rivela quello che è il progetto dei pretesi padroni della terra, che quando si tratta dei loro interessi, e non parlo solo del governo israeliano e di una parte purtroppo rilevante della società israeliana, ma anche gli europei, come ha detto giustamente Yanis Varoufakis, gli Stati Uniti sono complici di questo spaventoso massacro, di questo orrore, e allora noi dobbiamo assumere l'identità palestinese per differenziarci e per sapere che questa lotta deve continuare fino a quando noi non vedremo cessare non solo il massacro, ma non vedremo il pieno rispetto dei diritti del popolo palestinese, il primo diritto all'autodeterminazione e a tutti i diritti connessi al diritto all'autodeterminazione. E non vedremo finalmente sorgere lo Stato che avrà i palestinesi come suoi cittadini a pieno titolo, a pieno diritto, e non segregati, discriminati anche in base a principi schiettamente razzisti, perché quello che succede contro il popolo palestinese è una delle più ripugnanti forme di razzismo che si siano viste, e soprattutto nel secondo dopoguerra. E quindi ecco perché il mio contributo si chiama Io sono un palestinese. Questo è un esempio di nepotismo. Eloisa è mia figlia, è una fotoreporter che, nonostante sia gravemente malata da almeno 15 anni, va in giro per il mondo durante le guerre. È andata in Palestina, poi è andata a Gaza nell'estate 2014, l'operazione Margine Protettivo, quella che fece usare per la prima volta la guerra di Erode. In quella guerra furono uccise 8.300 persone, di cui 2.600 bambini. Adesso, allora fummo scandalizzati, fummo orrorificati. Adesso ci sembra davvero che quello era, no, un paradiso rispetto a quello che sta accadendo oggi a Gaza. Lei rimase bloccata dalla guerra. Un suo amico, giovane come lei, 25-30 anni, rimase ucciso nel tentativo di, mentre cercava di fotografare il disinnesco di una bomba rimasta inesplosa. Lei ha assistito alla morte di questo ragazzo perché è stata un po' più prudente di lui. E le cose che ha raccontato, al di là delle foto, veramente erano terrificanti. È arrivata di là e quando ci siamo trovati a Malpensa, lei la prima cosa che ha fatto si è sciolta in un pianto e non finiva più di piangere. Eppure era stata anche in Ucraina, era stata nella Grecia dei fascisti, era stata in un sacco di posti di guerra, ma quello che ha visto subire dalla popolazione di Gaza, le disse, è qualcosa che non si può dimenticare, sulla quale bisogna reagire. E appena è scoppiata questa guerra, lei mi ha detto, papà, partiamo, andiamo a Gaza. Ha detto, andiamo a fare gli scudi umani. Ha detto, beh, purtroppo non ci fanno passare. Ecco, e le voglio mostrare perché l'ho vista, è una donna molto schiva, che non vuole lavorare per i grandi giornali, che le propongono di fare foto di moda o cose di questo genere. Pubblica ogni tanto solo su giornali stranieri, che sono un po' più aperti. Ecco, e le cose che ha raccontato, ma a proposito di questa, no, mi raccontava di qualche cena di intellettuali israeliani progressisti che, ridendo, dicevano faremo di Gaza il nostro parcheggio. E che assistevano, come sta accadendo adesso, assistevano ai bombardamenti su Gaza, no? Come noi guardiamo i fuochi d'artificio. Avete visto le immagini nei giorni scorsi degli israeliani che si siedono con i drink e guardano i fuochi sulla Palestina, su Gaza? Ecco, è la stessa cosa. E ancora allora sentiamo parlare di palestinesi come animali non umani, come scarafaggi. Sono gli stessi epiteti che usava Golda Meir, di cui è appena uscita, ma guarda caso, una biografia agiografica. Golda Meir, la madre dello Stato palestinese, che sostiene che i palestinesi non esistono, non ci sono, cosa sono i palestinesi? E anche lei li chiama scarafaggi. Ecco, quel frammento che abbiamo sentito dal romanzo di Adania Scibli è significativo proprio per una frase che a un certo punto il capitano della guarnigione dice: dobbiamo prendere questa terra che ci aspetta da secoli, no? ci aspetta e ci spetta, perché è una terra disabitata. Ecco, la grande narrazione sionista qual è? È che è quella che combina un'endiadi, una terra senza popolo per un popolo senza terra. Questa narrazione nasconde un capovolgimento della storia, perché la Palestina era una terra abitata, fertile e felice, ed è stata travolta, distrutta dal colonialismo europeo. Israele non è che un'emanazione del colonialismo europeo, anzi possiamo dire che è il 51esimo stato degli Stati Uniti d'America. Questa è la verità, e dobbiamo smetterla di farci condizionare dall'idea che abbiamo un tributo da pagare a Israele, perché il progetto sionista è molto precedente alla Shoah. Lo Stato giudaico teorizzato da Theodor Herzl fu pubblicato nel 1897, e nel 1916 le grandi potenze Francia e Inghilterra decisero di spartirsi in Medio Oriente, la Siria e l'Iraq andavano alla Francia, la Palestina andava alla Gran Bretagna, e nel 17 il ministro degli esteri britannico Lord Balfour disse, no, il famoso messaggio che mandò alla comunità ebraica britannica presieduta da un signore che si chiamava Rothschild, tanto per dire, dicendo: il governo di Sua Maestà riconosce il diritto del popolo ebraico ad avere un suo national home, un suo focolare nazionale in Palestina. Ma, questo è il testo che oggi i sionisti usano come base fondativa, ma però quel documento aggiunge: purché ciò non rechi pregiudizio o danno alle popolazioni preesistenti. Questa è la parte che viene sempre dimenticata dai sionisti quando citano questo documento. Ed eravamo nel 1917. Benissimo. Allora, qui siamo appunto 10 anni fa, 2014, Palestina e poi Gaza. Le cose sconvolgenti che raccontava Eloisa, il fatto, i segni di disprezzo delle case bombardate, le case distrutte, segni di disprezzo degli occupanti, di coloro che sono andati poi in queste case, abbiamo visto anche in questi giorni, no, soldati israeliani che usano, distruggono e usano e si fanno fotografare, no, scherzosamente intorno a quell'inferno che stanno creando. E quindi Eloisa, 2014, guardato con gli occhi di oggi, sembra quasi una passeggiata, sembra un mondo ancora vivibile. Abbiamo visto all'inizio un'immagine che le trovò scritta su un muro di una casa diroccata: Still here, I'm still here. Manca il soggetto, che può essere però un soggetto collettivo. Io sono ancora qui, ma noi siamo ancora qui, cioè noi non ce ne andiamo, noi non ce ne andremo, che è quella forza di quel bambino che abbiamo sentito prima, l'episodio che ci è stato raccontato. I'm still here, eccolo qua. Questa casa di roccate, noi non ce ne andiamo. Questo popolo veramente sta mostrando una forza interiore, innanzitutto, che non ha l'eguale nella storia recente, non ha assolutamente l'eguale. Non fosse che per questo noi dobbiamo davvero riconoscere a questo popolo il diritto di esistere, di avere uno spazio. E oggi nessuno più crede alla favola dei due popoli per due stati. Non esiste più questa possibilità. E dobbiamo batterci per uno solo Stato laico, multiconfessionale, multietnico, dal fiume al mare. E i più aperti tra gli intellettuali israeliani stanno cominciando a dirlo. E dobbiamo smettere anche di avere paura di essere tacciati di essere antisemiti, perché intanto è una stupidaggine, perché i palestinesi sono semiti come gli ebrei, prima di tutto, e in secondo luogo non possiamo più accettare il ricatto della Shoah. Se essere dalla parte dei palestinesi significa essere antisemiti, ebbene, allora io mi dichiaro antisemita. Grazie. Lo spettacolo Gazart, artisti e intellettuali per Gaza, andato in scena a Roma, al Teatro di Villa Lazzaroni, lunedì 18 marzo 2024. Ideatori e organizzatori Angelo Dorsi e Alessandro Negrini, con interventi di Laura Morante, Barbara Scoppa, Michele Cantoni, Raffaele Crocco, Laura Frascarelli, Arianna Porcelli Safonov, Claudio Silighini, Monio Vadia, Angelo Dorsi. Riprese video dell'evento Mauro Conciatori. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Chiara Casarico della compagnia teatrale Il Naufragar Mè Dolce, una delle curatrici della 13ª edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, dal 12 giugno al 24 ottobre 2024 a Roma, ben trovata. Salve, buongiorno a tutti. Questa volta abbiamo anticipato, perché solitamente Agorà va in scena a settembre-ottobre, abbiamo messo come prima parte del programma il pop-up theater, che è ormai il nostro intervento di teatro urbano che stiamo facendo ormai all'impazzata, e funziona bene, la gente comincia a rispondere, ci aspetta. Abbiamo come location quelle più gettonate, sono Piazza Santa Maria Consolatrice o la pista ciclopedonale zona Montemario nel 14° municipio, però insomma abbiamo tante piazze e andremo avanti fino al 9 di luglio. Chiuderemo con un gran concerto della Fanfa Roma, la banda di Controchiave, con la quale collaboriamo stabilmente da un po' di anni. Dopodiché a settembre si entra nel vivo di Agorà. E questa volta non saremo semplicemente al Teatro del Lido, come ormai facciamo da 4 anni, ma abbiamo scelto un'altra location, che è il Museo di Casal di Pazzi. Quindi questa è la novità di quest'anno, e abbiamo pensato, ma se ci fanno la notte dei musei, e quindi è un posto dove noi abbiamo già lavorato e il pubblico ha gradito molto l'idea di vedere uno spettacolo di teatro e di musica in uno spazio non prettamente teatrale, cosa che poi è la nostra caratteristica, andare a cercare questi spazi un po' così, ma perché non possiamo farlo diventare proprio la sede del nostro festival? E così abbiamo fatto, e quindi abbiamo creato una rassegna all'interno del festival che va avanti più o meno una volta a settimana, i venerdì. E io adesso vi parlo semplicemente degli eventi più salienti, quindi iniziamo con Alessandro D'Alessandro, che ci farà un concerto in solo. Alessandro è un organettista, riesce a suonare l'organetto come fosse una fisarmonica e anche più, diventa veramente una piccola orchestra. Poi abbiamo una performance multimediale a cura di Ilaria Pacini, un'artista visuale che lavora anche con il video e sta organizzando proprio una performance site specific sul museo. Lei disegnerà qualcosa all'interno del sito archeologico e lo farà in diretta. Nel complesso, quanti sono gli eventi e com'è stata la scelta? Mi sembra per questa prima fase una trentina, con il finanziamento del Ministero e di Roma Capitale, ai quali si aggiungono un'altra, altri 25 col finanziamento della Regione Lazio. Quindi Agorà diventa un grandissimo contenitore che ha più di 50 eventi da qui fino a novembre. Come criterio di scelta noi privilegiamo sempre tutto ciò che è commistione tra teatro e musica, perché piace l'idea che il teatro e la musica si fondano, ma non solo, c'è appunto, come dicevo, tanto teatro urbano, ci stanno tante situazioni in posti non convenzionali, come appunto dicevo il Museo di Casal dei Pazzi o altre piazze, le location strane, e poi siamo anche in teatro, al Teatro del Lido, ormai da 4 anni stabilmente, e le scelte a livello musicale sono sempre molto mirate verso la musica folk, la musica popolare, anche perché è una parte della nostra ricerca. A livello teatrale abbiamo voluto dare un po' un segnale di leggerezza, quindi ci saranno diverse cose comiche, anche nostre soprattutto. Ci sarà giovani compagnie tipo Opificio 03 o Esodementi, con le quali ormai stiamo collaborando da qualche anno, e ci piace l'idea di dare lo spazio anche ai giovani. Abbiamo sì spettacoli di teatro canzone. Comunque, tra le chicche, appunto, a parte Alessandro D'Alessandro, avremo Valentina Ferraiolo, avremo Nando Citarella, che è ormai il nostro ospite consueto, ospite degli ospiti, anzi è la nostra madrina da sempre, Lucilla Galeazzi, sempre però in autunno stiamo parlando di cose che si svolgeranno più in là, e poi i Radicanto, con i quali ormai collaboriamo stabilmente da diversi anni. Io vi posso invitare a venire nelle piazze del quarto municipio o sulla pista ciclopedonale del 14esimo, sarà Montemario, perché adesso stiamo facendo tutto ciò che è più estivo, è fruibile in piazza, in strada, in parco, quindi sono i nostri pop-up theater. Diciamo che mediamente siamo in scena dal lunedì al giovedì, intorno alle 17:30-18 ci trovate in qualche piazza del quarto municipio. Siamo a Piazza Santa Maria Consolatrice, per esempio, e invece domani pomeriggio siamo a Montemario, angolo via Monfortani, sulla pista ciclopedonale. Giovedì a Largo Beltramelli. Per il resto vi rimando al sito www.innafragarmedolce.it. Tredicesima edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, dal 12 giugno al 24 ottobre 2024 a Roma. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Casarico della compagnia teatrale Il Naufragar Me Dolce, una delle curatrici. A presto! Grazie, a presto, vi aspetto! Con Andrea Bruciati, direttore artistico di Extraville, Metamorfosi in Bellezza, che si svolge a Tivoli, a Villa Adriana, Villa d'Este, il santuario di Ercole Vincitore, dal 23 giugno al 28 luglio 2024. Ben trovato. Buongiorno a voi. Spieghiamo cos'è. È una proposta per l'estate, per attualizzare la straordinaria bellezza senza tempo di luoghi straordinari che fanno parte dell'istituto, tra cui appunto Villa Adriana, Villa d'Este e il Santuario di Ercole Vincitore. È una sfida, una tensione che sono anni che porto avanti, e cioè quello di ricontestualizzare, secondo una sensibilità contemporanea, la bellezza di questi luoghi, in modo tale da renderli vivi da un lato e da renderli anche delle cucine, dei cantieri culturali dall'altro, non semplicemente dei monumenti. Quanti sono gli appuntamenti in programma e com'è stata la scelta artistica? Gli appuntamenti sono 20, trascolorano dalle pellicole, quindi dal cinema, degli incontri legati alla letteratura, al teatro e a delle performance. Sono stati coinvolti tutte e tre le sedi, per cui si inizia con il santuario, con un omaggio ai grandi della commedia all'italiana, e sarà anche l'occasione per ricordare Marcello Mastroianni, e quindi poi si passerà a Villa Adriana invece con tre serate di teatro e di incontri, e si terminerà con Villa d'Este, dove tutte le arti verrà reso omaggio. Quindi è un programma che per la prima volta abbraccia tutto l'ecosistema culturale delle ville tiburtine, offrendo agli visitatori delle proposte sempre diverse, anche perché non dimentichiamo, anche laddove ci sono delle pellicole degli anni 60, i luoghi sono così straordinari che sono degli spettacoli unici, indipendentemente appunto dall'offerta anche di pellicole che già tutti noi magari conosciamo. Vengono sempre selezionati dei lavori che in qualche modo hanno delle peculiarità del linguaggio non proprio da mainstream, quindi abbiamo voluto comunque, sempre attraverso anche gli ospiti che nutrono il programma, trovare delle chiavi di lettura, delle prospettive diverse. Le ville vogliono in qualche modo porsi sempre come un atteggiamento, io definisco diagonale, per quanto riguarda la proposta culturale, perché vogliamo sempre ipotizzare dei nuovi percorsi. Per quanto riguarda sempre il cinema, ma diciamo anche il teatro, c'è quindi apparentemente una sorta di passaggio da delle prove più tradizionali o comunque storiche ad un discorso legato alla sperimentazione. Infatti a Villa d'Este proporremo proiezioni di giovani registi, e quindi lavoriamo, se vogliamo, per endiadi, ma che hanno sempre, senza soluzione di continuità, questa dialettica tra la tradizione, la storia e l'innovazione attuale. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sul nostro sito, che è ville.cultura.gov.it. Gli orari sono tardo pomeridiani? Preserali, ecco, diciamo che sfruttiamo il momento del tramonto, anche perché noi siamo dei palcoscenici naturali verso l'occidente, quindi siamo baciati dal sole fino a tardi, e sono tutti ingressi unici e gratuiti, quindi questa è una cosa importante, proprio perché reputiamo che la cultura debba coinvolgere più persone e differenti azioni generazionali possibili, e quindi sfruttiamo dalle 20:30. Gli incontri saranno verso le 20:30 e poi verso le 21:30 in base al procedere delle serate a luglio, all'inizio vero e proprio dello spettacolo. Extraville, Metamorfosi in bellezza, a Tivoli, Villa Adriana, Villa d'Este, Santuario di Ercole Vincitore dal 23 giugno al 28 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Bruciati. A presto! Grazie a voi, grazie, vi aspetto. Con Alessandro Fabrizi, direttore artistico di Festa di Teatro Ecologico, 10ª edizione a Stromboli dal 29 giugno all'8 luglio 2024. Ben trovato. Ben trovato a te, buongiorno. Spieghiamo cos'è questa festa. Consiste in 9 giorni di incontri di teatro, musica, danza, divulgazione scientifica, cronaca, presentazione di libri, passeggiate per l'isola, incontri con gli strombolani nelle case degli strombolani o di chi si è trasferito a Stromboli. Insomma, 9 giorni di varie proposte di attività di comunità. Infatti si chiama festa e non festival, come tu sai bene, perché è più un simposio, una settimana di incontri in cui artisti e relatori a vario titolo coinvolti presentano qualcosa, come se appunto una festa, uno dice gli porto l'insalata, gli porto il dolce, gli porto il vino. E si passano questi 9 giorni facendo un'esperienza reale, ma poi nella sostanza più poetico-simbolica che risolutiva, di disinquinamento acustico e visivo, perché non usiamo corrente elettrica né per l'illuminazione né per l'amplificazione della voce, degli strumenti musicali. Quindi è tutto a spina staccata, come diciamo noi, non attacchiamo spine nella corrente. E siamo arrivati sì alla 10ª edizione, in realtà è l'11ª annualità, perché la prima edizione, quella del 2013, l'abbiamo numerata 0, era l'edizione 0. Non so se ci aspettavamo di arrivare fin qua, ma ci siamo riusciti, e quest'anno dedichiamo la festa, ogni anno la festa ha un tema, un personaggio, al centenario della nascita di Danilo Dolci soprattutto. Abbiamo intitolato la festa What Dreams May Come, che è la parte di un verso del famoso essere o non essere di Amleto, che appunto si domanda se tutto sommato non valga la pena togliersi la vita, perché morire è come dormire, però dice però forse anche sognare, quindi quali sogni possono venire, che cosa ci possa accadere di sognare, ci spaventa e non lo facciamo. Però ecco, la frase presa da sola, What Dreams May Come, significa appunto cosa si possa sognare, quindi abbiamo dedicato una festa ai sogni, anche perché Danilo Dolci tornava molto sull'idea del sogno, anche come desiderio, ispirazione, sogno di cambiare la società, migliorare la qualità della vita, ha lavorato tantissimo in Sicilia, e cambiare le modalità e il concetto proprio di educazione. E quindi a partire da questa frase, cosa si possa sognare, e a un verso di una poesia di Danilo Dolci, che si conclude appunto con ciascuno cresce solo se sognato, abbiamo così creato un programma molto errabondo, discontinuo e pieno di lacune sicuramente, però in cui si gioca con l'idea del sogno come proprio mondo onirico, del sogno come desiderio, dell'incubo, della paura, e con tante attività diverse. Incontreremo il grande Gatsby, il suo sogno, un riracconto del Piccolo Principe e la sua versione sui sogni. Ci sarà uno spettacolo dedicato a Danilo Dolci, che si chiama Digiunando davanti al mare, di Giuseppe Semeraro. ci sarà uno spettacolo dedicato a un testo di Euripide, Alexandros, che sono rimasti soltanto dei frammenti, e il testo è di Antonio Piccolo, che è anche il protagonista dello spettacolo, accompagnato da Marco Bidino per le musiche e la regia di Vino Musella, e tante altre cose, il laboratorio per bambini, incontri appunto nelle case degli strombolani che si sono trasferiti qui, il progetto a cura di Stefania Menciullo si chiama Le Case dei Sognatori, e tante altre cose, le troverete tutte sul sito. E naturalmente concludiamo con una prima esposizione Midland Space Site Specific di Amleto di Shakespeare il 7 luglio. Ecco, ci dai i riferimenti web per i dettagli del programma? Tutto il programma si trova sul sito della festa, che è Festa Teatro Ecologico. Basta scrivere Festa Teatro Ecologico e appare il sito sul web. E poi naturalmente c'è la pagina Facebook, che è sempre Festa di Teatro Ecologico, la pagina Instagram, Festa di Teatro Ecologico. Decima edizione della Festa di Teatro Ecologico, What Dreams May Come, il titolo di quest'anno, a Stromboli dal 29 giugno all'8 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Fabrizi. A presto! Grazie a te, a presto, vi aspetto a Stromboli, vi aspettiamo a Stromboli. Con la giornalista Gabriella Simoni per presentare la serie podcast Quei Cattivi Ragazzi su tutte le piattaforme audio streaming da giovedì 13 giugno 2024. Ben trovata! Ciao, buongiorno a tutti! Cos'è questo progetto? Questo progetto risponde a una serie di esigenze. La prima è la mia, che dopo anni di televisione, io da 30 anni mi occupo di guerre, ero un po' stanca dell'apparire e del guardare e mi piaceva che qualcuno ascoltasse. E dal fatto che sento troppo parlare di etichette, cioè baby gang, violenza a Milano e così via, a me piace sempre andare un po' dentro le cose e cercare di capire, come dico fin dall'inizio del podcast, non tanto per giustificare ma per spiegare, perché le etichette nascondono storie. Le generalizzazioni, gli unicum nascondono dei singoli, degli individui che hanno delle storie da raccontare e che è bene ascoltare per abbattere quella distanza che si crea con i muri, i confini, le etichette e così via. Cosa hai fatto? Io ho un rapporto con questa comunità Tairos da anni. Preferisco andare a mangiare lì in comunità che non alla mensa aziendale, mi annoia meno. E quindi mi sono messa seduta su una sedia vicino a un cappetto, ho aspettato che i ragazzi venissero da me un po' per curiosità, un po' perché qualcuno mi conosce, perché questo significava che erano pronti a raccontare la loro storia, le ho raccolte. Io credo di avere un rapporto forte con loro perché loro sanno che mi butto nelle cose e soprattutto sanno che non ho pregiudizi e io non ce li ho davvero. Nel senso che quando sono davanti a loro mi immedesimo, penso che poteva capitare anche a me e questa è una cosa che li fa sentire tranquilli, sicuri. E poi è intervenuto il magico mondo di Cora che ha messo ordine nel mio caos creativo e quindi ha creato una cosa che ha una struttura, un passato, un presente, un futuro, c'è un prima, c'è un dopo, c'è chi ce l'ha fatta, chi no. Loro hanno costruito questo building, questa grande casa che è il racconto di Kairos, dei ragazzi di difficili della Milano che ci fa paura. Come sono andate queste conversazioni? Bene, benissimo, perché loro quando decidono sono persone meravigliose. Certo, sono andate anche che c'erano dei giorni no e basta un colloquio che va male, un permesso che viene ritirato, qualcuno che finisce nei guai perché tu arrivi in comunità e senti un'aria sinistra. E lì non puoi andartene perché sembra, se no, che insomma vai lì solo perché ti interessa ascoltare le storie e nei giorni no ti ritiri, no? Ti defili. Allora ti metti su una sedia e non fai niente e vedi queste persone, quelle poche che passano in giro, perché di solito i ragazzi nei giorni no si ritirano nelle loro stanzette, si chiudono, si mettono le cuffie, non vogliono ascoltare niente. E dei giorni meravigliosi in cui sembra di essere nel cortile di un liceo durante l'intervallo in cui tutti schiamazzano, ridono, si prendono in giro e giocano. Va così, va a giornate, va alti e bassi, com'è la vita, perché questi ragazzi hanno una vita già adulta, già complicata e lo senti. Non ti puoi illudere che funzioni sempre come se fosse un cortile di un liceo e non puoi neanche pensare che sia un carcere, un posto dove c'è speranza, e quindi loro lo sentono questo. Poi il giorno in cui hanno paura di non farcela, come ogni adolescente che ha paura di non farcela, ma molto di più, moltiplicato per 100 e per 1000, perché loro spesso hanno già delle pesanti condanne alle spalle, hanno una sola possibilità di farcela, in quei giorni lì è più difficile, più complicato, lo devi capire, devi giocare da anticipo, come si direbbe nel calcio. Quanti sono stati i ragazzi coinvolti nel progetto e che età hanno? Si va dai 14 più o meno a quelli più grandi che sono ex ragazzi, 3, 4, 5 per puntata, una ventina di ragazzi, ma sarebbero stati molti di più perché avrebbero voluto parlare anche altri. Siamo andati a presentare qualche giorno fa il podcast in comunità e alcuni ragazzi nuovi sono venuti da me e hanno detto: ah, quando è che andiamo avanti? Stavolta voglio raccontare io, perché loro hanno bisogno di questo, hanno bisogno di uscire da questo anonimato terribile che li schiaccia in un mondo non voluto, hanno bisogno di uscire da un destino predeterminato, hanno bisogno di avere una possibilità, tutti noi abbiamo bisogno di avere una possibilità, cioè prova a pensare se tu ti ritrovi in una situazione dalla quale non puoi uscire, non è detto che tu reagisca come loro, però ci sta, il che quindi giustifica ma non spiega. Che idea c'è di domani? Dipende dai giorni. I giorni neri sono quelli in cui loro non vedono un domani, però hanno capito tutti bene che cosa vuol dire Kairos. Una cosa ho notato, Federico, che quelli che più hanno toccato il fondo, più stanno attenti a non sbagliare. Quelli che più l'hanno fatta franca, più tendono a pensare di continuare a farla franca. Però se ci pensi, questa è la vita di tutti i giorni, no? È così anche tra gli adulti per bene, messo fra virgolette il per bene, ovviamente. E quindi l'idea del domani in questo momento è quando incontrano questo sacerdote che gira per il Beccaria, che tutti ormai conoscono, è che lì un domani ci può essere. Non è tanto come sarà, è che ci possa essere un domani. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Lo trovate su Spotify, si chiama Quei Cattivi Ragazzi, sono 6 puntate. L'ultima è una puntata anomala, perché non parla di una storia dentro la comunità, ma di una storia che poi alla fine riguarda tutti noi, che è la giustizia riparativa, ed è la storia di uno dei fatti di cronaca. Se ne è parlato molto. Lo trovate su tutte le piattaforme, è un prodotto fatto da Cora, che ha aiutato molto la Gabri. La Gabri sono io, e sono quella che si è ficcata nelle cose, e loro mi hanno aiutato a mettere ordine in tutto questo caos che io ho inventato, perché tieni presente, io questa comunità la conosco da 15 anni. Da 15 anni ci vado da quando Don Claudio, ci tengo a dirlo, aveva lasciato camera sua a uno dei ragazzi che altrimenti non avrebbe avuto posto e dormiva in un camper. Oggi quel ragazzo si è laureato, ha preso una magistrale in scienza dell'educazione, è un educatore, ha scritto un libro, sulla sua storia farà un film ed è stato citato dal ministro Cartabia come esempio di come uscire da un destino predeterminato in Parlamento. La serie podcast Quei Cattivi Ragazzi su tutte le piattaforme audio streaming da giovedì 13 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla giornalista Gabriella Simoni. A presto! A presto, ciao, grazie! Con l'urbanista Paolo Berdini sul libro Roma Moderna, due secoli di storia urbanistica. Una presentazione a Roma, all'Arena Cinevillage Monteverde, lunedì 1 luglio 2024, alle ore 19. Ben trovato! Buongiorno a tutti. Che libro è questo? Cosa si racconta? È un piccolo monumento della cultura, non solo urbanistica, della cultura romana, perché il libro esce nel 1962, niente meno, siamo nel pieno della discussione sul piano regolatore che poi verrà approvato nel 1965. Italo Insolera è giovanissimo, ha 33 anni quando viene pubblicato il libro, e il libro narra dei meccanismi che trasformano la città. Quindi l'innovazione di Insolera è che parla dello scenario economico, dello scenario politico, e poi però entra nel merito dei più dettagli della disciplina urbanistica, quindi è un libro fantastico. Com'era nato quel libro? Il libro era nato in un dibattito che c'era nella città profondo, che riguardava l'Istituto Nazionale di Urbanistica, dove in Solera militava Italia Nostra. Tant'è che 3 anni prima, nel 60, poco prima della morte di Olivetti, che pubblicava la meravigliosa rivista urbanistica, escono 2 numeri monografici su Roma, di cui in Solera è protagonista. Ci sono i più grandi architetti dell'epoca, molto più grandi di Italo, che appunto all'epoca aveva addirittura 30 anni, però lui fa la parte del leone, fa gli articoli più lunghi e più approfonditi, quindi gli lasciano campo libero, evidentemente è un'incoronazione di un personaggio fuori negli schemi. Come è articolato il libro? Era articolato perché ci sono 2 piccole novità molto belle, molto interessanti. Era datato dal 1870, questo è il libro di Insolera 1962, nel senso che parte dall'Unità d'Italia, cioè dalla breccia di Porta Pia, dall'entrata dei piemontesi a Roma. Il libro già era uscito a doppio nome, anche se con una piccola sfumatura, perché quando lo riscrivemmo, Italo è morto ormai da più di 10 anni, e il libro uscì nel 2011, lui stesso propose di anticipare la modernità di Roma, non è con l'arrivo dei piemontesi, la modernità di Roma è con l'arrivo delle truppe francesi, che pensano alla seconda città dell'impero, come la chiamano loro, in grande, cioè pensano di farne un luogo meraviglioso. E dunque già il libro partiva dai primi 10 anni dell'Ottocento. Adesso il libro si ferma ieri, quindi diciamo che prende sostanzialmente poco più di 200 anni di storia urbanistica della città. Come si è trasformata in questi 2 secoli la città? In 2 modi, se posso sintetizzare. Da una parte con l'occupazione sistematica e disordinata di tutti i conventi del centro storico da parte dei piemontesi, che li hanno utilizzati per la realizzazione dei ministeri. Si poteva scegliere un'altra strada, la strada scelta ad esempio da Firenze, a Roma invece vengono occupati sistematicamente. Se noi oggi abbiamo il grande blocco del centro storico, questo è dovuto a quella scelta affrettata e assolutamente poco lungimirante. Ci penserà solo, ma passeranno alcuni anni, Quintino Sella a pensare all'asse di via 20 settembre, ma ormai i giochi erano fatti, cioè tutti i grandi conventi e monasteri di Roma erano diventati ministeri. Poi c'era il Parlamento nella vecchia Curia, poi c'era il Senato del Palazzo Madama. Qui di fatto succede l'occupazione del centro, nasce da lì la terziarizzazione del centro. Altre città hanno guardato lontano, hanno pensato di decentrare immediatamente le funzioni direzionali. La seconda novità, questa ben più tragica, è la creazione di una periferia immensa. Immensa, disordinata, che non ha uguali in ogni altra città dell'Europa civile. Comincia il fascismo creando le borgate ufficiali, da Primavalle a Tufello e a Cilia e tante altre. E poi ci penserà sia l'abusivismo indotto dalla grande proprietà terriera e sia scelte dissennate di costruire in ogni angolo di questa povera città. A questo punto la periferia non ha più i servizi e dunque quella che era la speranza di Italo Insolera nel 60, quando sta per nascere il piano regolatore, che si creasse una città moderna, tramonta per il fatto che non ci sono i servizi che connotano una città moderna. In periferia non ci arrivano i servizi di trasporto pubblico, in alcuni casi ancora manca l'acqua potabile dell'acquedotto pubblico e le fognature, e mancano in alcune parti della città purtroppo ancora le scuole. Questa è Roma Capitale. Dal piano regolatore in poi, che accelerazione c'è stata in questo senso? Dall'ultimo piano regolatore, dal 2008, da quando viene fatto ingoiare, nonostante le nostre proteste, alla città questo piano dissennato, si è dato campo libero al mercato, cioè non c'è più nemmeno il pensiero liberale che aveva caratterizzato tutti i piani dal 1883 fino al 1965, ormai è il privato, questo fa la sinistra al governo della città in quel momento. E gli effetti ce li abbiamo sotto gli occhi, se ci pensate, cioè ormai il centro storico è vuoto di abitanti e nell'ultimo periodo, parlo degli ultimi 4 mesi, sono stati aperti e inaugurati almeno 10 alberghi a 5 stelle, quindi il centro, la parte erano delle scuole, tipo il Nazareno, una scuola d'élite, ma comunque una scuola, sono stati svuotati. Pensate che al Nazareno si pagano, basta aprire il sito, 850 euro per una matrimoniale. Questo è il modello del mercato che è stato aperto appunto con l'approvazione del piano del 2008. Roma è in preda alle forze dell'economia neoliberista che investe nella bellezza sublime di Roma e dunque ha creato un immenso hub turistico nel centro storico, sempre più vuoto. Ormai siamo sotto i 60.000 abitanti e per fortuna c'è Testaccio e Squilino, altrimenti il centro antico, quello su Via del Corso, è completamente vuoto. A presto! Ciao, ciao, grazie a te. Ciao. L'urbanista Paolo Berdini sul libro Roma Moderna, due secoli di storia urbanistica. Una presentazione a Roma, all'Arena Cinevillage Monteverde, lunedì 1 luglio 2024, alle ore 19. Siamo arrivati all'agenda per gli appuntamenti della settimana con il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio in questo nuovo martedì della settimana teatrale, anche insomma una settimana teatrale di fine giugno, quindi via via, insomma, i nostri teatri più noti sono un po' più sguarniti, ci sarà un po' di festival in giro, qualche rassegna qua e là, insomma la città in qualche modo si muove, anche se pochino. Ma insomma, andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Intanto si parte dal nostro amico Torbella Monaca, perché durante questa settimana andremo a vedere un po' di lavori. Qui sono un po' veloce, devo dire, perché non conosco molto bene le storie che sono dietro questi lavori, non saprei identificare molto bene la loro qualità, la loro provenienza, quindi dico anche questa settimana il Torbella Monaca è pieno, purtroppo in realtà, di teatro, ogni giorno c'è qualcosa di diverso, magari sul sito del Teatro Torbella Monaca, che è Teatro in Comune, e poi insomma c'è / Torbella Monaca, insomma si trova facilmente da Google. Direi che si può rintracciare un po' tutto quello che c'è in questa settimana, quindi ecco, andrei un po' leggero su questo, cercando invece di focalizzarci un po' di più sulle proposte su cui insomma abbiamo una maggiore coscienza. Intanto è cominciato in Gravanti fino al 24 ottobre, quindi figuriamoci un po', l'edizione numero 13 di Agorà, Teatro e Musica alle Radici, che è, diciamo, il progetto curato dal nostro Carmen Dolce con la direzione artistica di Chiara Casarico. Allora, per questa settimana andremo a vedere ad Agorà alcuni appuntamenti che vado a segnalare. Dunque, per quanto riguarda, ecco, oggi pomeriggio già si comincia con uno spettacolo itinerante dal Parco Lineare Ciclopedonale, la stazione Monte Mario, insieme al Ponentino Trio. Domani 17.30 lo spettacolo itinerante partirà da Via Pollenza e sarà seguito da Luciano Pastori, Manuela Bolco, la stessa Chiara Casarico, e Attenti ai Clown invece giovedì 27 con lo spettacolo itinerante che parte da Piazza Santa Maria Consolatrice. Quindi cosa vuol dire questo? Ci saranno una serie di spettacoli itineranti praticamente un po' tutti i giorni durante i mesi, ecco, giugno ancora, la prima decina di luglio, poi si riparte a settembre da i municipi diversi in qualche modo e con una diversa partenza e anche curati da persone diverse. Quindi molto interessante la proposta di questo teatro e musica che guarda alle radici, e gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero. Allora, procediamo invece oltre, perché Arte in Cammino conclude questa settimana con spettacoli, ecco, non a Roma ma nei comuni della Valle dell'Aniene e del Giovenzano. Segnalo il 29 giugno a Gerano, Piazza Santa Maria, Francesca Astrei con il suo Mi manca Van Gogh, monologo scritto e interpretato da Francesca Astrei. Poi invece il 30 giugno in scena ci sarà Twain, il centro di produzione di danza regionale, con il plastico Performance per Corpi Soli, precisamente a Vicovaro, nello spazio Movies. Questo per quanto riguarda l'offerta di questa settimana, quella conclusiva di Arte in Cammino. Poi ancora invece dobbiamo ricordare tra delle lettere da mano laziale, qui Paesaggi del Corpo, che ancora il 30, ancora fino al 30 giugno presenta qualcosa, e precisamente ai Cisternoni di Albano alle ore 18 andremo a vedere Oscure Luminescenze della compagnia sarda di danza, che è riconosciuta a livello istituzionale, che si chiama Asmed Balletto, e quindi questo lo andremo a vedere appunto al 30 giugno alle ore 18. Seguirà invece la compagnia Atacama con Lost Solos, uno spettacolo tra danza con una commissione di altre arti, poesia, letteratura, arti visive, sempre appunto ai Cisternoni di Albano. Questo per quanto riguarda il 30, che se non sbaglio domenica, sì, domenica prossima. Poi ancora ricordiamo al Via Fuori Programma, già partito il 21, ne abbiamo parlato, sarà fino al 5 luglio la rassegna di danza, la festival, la realtà internazionale di danza contemporanea, la sua nona edizione, tra vari teatri, Quarticciolo, India, il Parco Dottor Testa Alessandrino, il Laboratorio dei Cerchi e così via. Andiamo a vedere questa settimana che cosa ci propone. Beh, un sacco di appuntamenti. Allora, già questa sera alle ore 18 al Quarticciolo andiamo a vedere Placebo Dance, è una prova aperta di Flavia Zaganelli, che è in residenza lì, è in residenza attualmente lì al Quarticciolo. Seguirà appunto il lavoro di Salvo Lombardo, Parco Trotter Testa Alessandrino, Let My Body Be, e a seguire sempre nello stesso luogo Frantic Dance Company con Dystopian, che è il loro nuovo lavoro. Poi domani invece andremo a vedere Tom con il progetto Site Specific Darkness Picnic, sicuramente sarà un attraversamento del parco del Testa Alessandrino con una componente artistica come nelle caratteristiche di Tom. Andremo a vedere Alexis 2.0 di Aristide Rontini, Nexus, il 28 di giugno. Seguirà Sierze Baleta con O Tempo Dis, sempre a Parco Torte Testa Alessandrino. E insomma, varie opportunità per questa settimana, anche una prima nazionale di Leo Leus, la compagnia Zimarel. E poi insomma se ne parlerà la settimana prossima con un'altra grande settimana. Però ecco, insomma, la danza la danza a Roma Est questa settimana sarà molto molto nutrita. Segnalo in ultimo, anzi in penultimo, una cosa, e anzi a questo punto due. La prima, che comincerà mentre noi non siamo in ascolto, ci sentiremo il martedì, ma da lunedì 1 di luglio inizia la terza edizione del Festival Teatro delle Migrazioni presso il nuovo Teatro Ateneo alla Sapienza. E verrà, sono fatti altri tre giorni con tre spettacoli. Il primo di luglio toccherà al vecchio nostro amico Ascanio Celestini con Storie di persone, una po' vaga, magari Storie di persone, poi vedremo. Che sia la Francesca Vaccaro, il 2 con Sindrome Italia o delle vite sospese, e il 3 luglio, poi insomma, vabbè, ne parleremo settimana prossima, uno spettacolo. Di Cantieri Meticci, l'ultimo Icaro, ma ne parleremo. Questo Festival delle Migrazioni è molto interessante, molto importante, direi che non possiamo non darci uno sguardo come si deve. E in ultimo vado a ricordare poi l'appuntamento della settimana, ovvero sia Dominio Pubblico Youth Fest a Roma, Teatro India, da oggi fino al 30 di giugno. Andremo a vedere un po' di lavori che ormai, insomma, il mio pubblico è l'11ª edizione, il festival multidisciplinare con 130 giovani artisti che presentano una trentina di eventi in pochi giorni, in sei giorni, tra teatro, danza, circo, musica, cinema, arti visive, digitali, tutto quello che ci viene in mente, ma soprattutto una grande, grande energia. E andiamo quindi a vedere un pochino più nel dettaglio di che cosa si tratta. L'offerta è piuttosto complessa, è complessa da esplicitare. Insomma, si parte appunto il 25 e direi che invito ad andare sul sito di Dominio Pubblico per vedere un po' tutto il programma, perché davvero gli appuntamenti sono tantissimi, tutti appunto al Teatro India. Vediamo un po' se riusciamo raccontarci qualcosa. Il programma, vediamo un po', qui ce lo fanno vedere un po' più nel dettaglio sul sito www.pubblicoteatro.it, e qua andremo a vedere per quanto riguarda il teatro la Terna Sinistrorsa, Lidi Precari, Lucia Raffaella Mariani ed altri, insomma, per la danza Beatrice Ieni, Marta Castelletta e insomma tantissimi anche autori per quanto riguarda le arti visive, le arti digitali e alcuni spettacoli extra bando come la compagnia Contro la Canch, It's the Catfish, poi andremo a vedere Amiro Sandy Agubi, insomma un bel po' di nomi che conosciamo del panorama nazionale, anche se comunque nell'ambito della più giovane età. E appunto al Teatro India, questo è l'appuntamento 25-30 giugno per il dominio pubblico Youth Fest. È tutto, ciao a tutti! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.